equation-wise, the first thing to do is to consider time as officially ended. We work on the other side of time. We bring them here through isotope transmolecularization. Or better still, teleport the whole planet here through Allora, all'incirca 10 minuti dopo le ore 19, riapriamo la diretta dagli studi di Radio K Centrale per un nuovo appuntamento con il container DJ Set. Un saluto da James Selleck. E un saluto anche dal Barone. Parliamo molto velocemente, atmosfere molto rarefatte ma che corrono alla velocità della luce, atmosfere particolari per questo sabato. Come particolare è la Guest, che in questo momento ci ha già allietato con le sue melodie. E allora veramente per noi è un momento emozionante. Io sono cresciuto con i suoi dischi. Stiamo parlando di DJ Food, direttamente dall'immaginario della Ninja Tune Record, che questa sera ci dà l'onore appunto di aprire il container DJ Set sulle frequenze di Radio K Centrale. E allora poco spazio alle parole e tanto spazio alla musica, in diretta sulle onde di Radio K Centrale, DJ Food dalla Ninja Tune Record. Graditissima sorpresa anche per noi questa sera in diretta dagli studi di Radio K Centrale, Mr. DJ Food, direttamente dall'immaginario musicale della Ninja Tune Record. E allora è stato veramente un caso, perché questa sera, come già vi abbiamo ricordato in settimana, ci sarà il live della Cinematic Orchestra e appunto DJ Food collabora con la Cinematic offrendogli appunto delle sonorità, dei groove durante appunto il suo live. E quando ho saputo in effetti che DJ Food lavorava questa sera con la Cinematic Orchestra, ho cercato appunto di organizzare questo DJ set, perché sinceramente, come vi ho detto prima, sono cresciuto con le sonorità della Ninja Tune, ma soprattutto con i dischi di DJ Food, un maestro veramente. Il piacere veramente assoluto ascoltare qui all'interno di Container il suono di DJ Food. Speriamo che sia un piacere assoluto, assolutamente, anche per tutti i radioascoltatori. Qui sono passati 10 minuti dopo le 19, questo è il Container DJ Set. talent. You weasel, you're better off pumping diesel. I find it feasible, your days is over for the evil. Shouting to your people trying to bless your spot, but we don't believe that, your CBS tells a lot. Superstar. What the fuck, y'all moving or not? Yes, the group on with this, so you're pumped in it. Danger. So what the fuck, y'all moving or not? Yes, the group on with this, so you're pumped in it. Oh my God. bumping in my head. A pretty city with a million flower beds. And I can hear the angels sing a song that only angels sing. She's such a pretty thing, and I can feel my heart just thumping and skipping when I'm kissing my love. Now she's so good at what she does, all she wanna do is kiss and hug. She's got me in love, and I can feel my heart just a thumping and a skipping when I'm kissing my love. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot. Sull'orbita del container DJ7 continua sempre a sognare e a farci sentire, sognando appunto queste atmosfere DJ Food dall'immaginario musicale della Ninja Tune, qui in esclusiva Radio K Centrale all'interno del container DJ7. 21 minuti dopo le 19, mantenete la frequenza 105.85. Se ci volete ascoltare in streaming audio, siamo al sito www.radiokcentrale.it. Questo è il suono di DJ Food direttamente dalla Ninja Tune. We'll be right back. Thank you. E indubbiamente DJ Food incarna al meglio appunto questo viaggio musicale che è proprio della Ninja Tune, un percorso fatto sulla ricerca, la ricerca del suono anche minimale, e poi un incrocio a 360 gradi, dal funk al jazz all'hip hop. E allora, sabato 16 novembre 2002, in diretta negli studi di Radio K Centrale, DJ Food. ultimo pezzo per appunto DJ Food. Noi chiaramente ringraziamo la Propop, DJ Afghan, Coco Seller per appunto averci dato la possibilità di ospitare negli studi di Radio K Centrale DJ Food. Ringraziamo DJ Food e la Ninja Tune, e vi ricordiamo chiaramente che queste sonorità le potete ritrovare questa sera al Link in via Fioravanti con il bellissimo live, attesissimo live della Cinematic Orchestra, e quindi tutto l'immaginario della Ninja Tune. E allora chiaramente il container DJ set prosegue appunto con il DJ set offerto da Luca Mauro. E allora lasciamo subito le nostre coordinate. Direi doveroso la nostra coordinata telefonica 051 35 7472, ricordo www.radiokcentrale.it per seguirci in streaming audio. Container DJ set, Radio K Centrale.